Il gastronauta, l'Italia del cibo, di Davide Paolini. Buona domenica a tutti coloro che sono in ascolto. Ebbene, rimanete in ascolto perché vi daremo dei suggerimenti per tutta l'estate. Per tutta l'estate, per chi vorrà ovviamente bere dei cocktail magari in giro per l'Italia. Faremo così un viaggio attraverso l'Italia dei barman, ci faremo consigliare e ci faremo dare anche le tendenze di quale sarà il cocktail dell'estate 2015. Chi volesse intervenire, 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Quindi intervenite pure, segnalateci dei cocktail, magari li sottoporremo anche ai nostri barman che o sono in ascolto o sono qui presenti in studio, come Guglielmo Miriello del Dry di Milano, ormai diventato un posto famosissimo. Buongiorno Guglielmo. Buongiorno Davide. Bene, lui ci seguirà per tutta la trasmissione. Ma ora io voglio cominciare subito da un punto base. Ma esistono cocktail per l'estate e cocktail diciamo per le altre stagioni? Beh, sicuramente il cocktail segue la stagionalità. Quindi sicuramente d'estate si prediligono cocktail molto rinfrescanti, long drink con presenza di frutta fresca e agrumi che sicuramente rinfrescano anche il palato. Bene, sentiamo anche Gianfranco Pola di Cremona, un barman noto nella città di Cremona. Buongiorno Gianfranco. Buongiorno Davide. Allora, esistono cocktail stagionali? Ma sì, penso proprio di sì. Ogni estate, come i dischi che arrivano dalla musica, anche i cocktail arrivano a rallegrare le serate. Ma c'è qualche evergreen? Sì, beh, ce ne sono. Ci sono quelli che non cadono mai. E quali sono? Sempre in prima linea. Quali sono? Beh, penso che nonostante oggi ci sia una forte attenzione a tutto quello che è il proibizionismo, quindi però credo che il mojito sia sempre un cocktail benvenuto. Tu cosa ne pensi, Guglielmo? Sicuramente negli ultimi anni c'è stata una tendenza, una riscoperta del gin. Non voglio spezzare una lancia in favore del gin tonico, nel senso che è sicuramente un drink rinfrescante, tonico, da magari anche da fine pasto, da fine serata. Ci sono sì sicuramente degli evergreen, oppure un ritorno in auge di cocktail magari dimenticati. Non so, adesso negli ultimi anni è spopolato il Moscow Mule, che è un drink che nella sua semplicità comunque racchiude anche un po' la chiave del gusto c'è nel Moscow Mule? Il Moscow Mule è un drink a base di ginger beer, vodka e lime, un drink che comunque è stato creato per il lancio della vodka sul mercato americano negli anni 50, quindi se vediamo bene è un drink che ha una sua radice. Bene, sentiamo già una radioascoltatrice. Bene, donne chiamate, donne cocktail chiamate. Clara da Cagliari, buongiorno Clara. Buongiorno. Prego. Niente, volevo semplicemente dire la mia super ricettona. A me piace pasticciare. Di recente è capitato che degli amici si sono trasferiti in Etiopia, ad Addis Abeba, e mi hanno portato una spezia. Ci sei? Sì, ti ascolto, come lo ti ascoltiamo? Mi hanno portato una spezia che io non conoscevo e non ho mai visto. Si chiama berbere ed è un miscuglio di tante cose, insomma. E mi sono inventata questa cosa. Una parte di vermentino, una parte di ginger, due parti di spumante e poi cetriolo e berbere, un cucchiaino, faccio delle enormi caraffe e poi servo con del ghiaccio dove ci ho messo una foglia di lime. Questa cosa non so se chiaramente io sono una profana. Sentiamo, abbiamo due esperti in linea. Sentiamo Guglielmo, cosa ne pensi? Tu sai cos'è il berbere? Onestamente è la prima volta che sento il nome di questa. Credo che sia un mix di spezie locali. Bene, sentiamo Gianfranco Pola, tu sai cos'è il berbere? No, io sono nelle stesse condizioni di Guglielmo, uguale. Bene. Clara, illuminaci. Hai distrutto due barman che non sanno cos'è il berbere. Grazie Clara del tuo contributo. Bene, ora credo che lanciamo una sfida ai nostri radioascoltatori. Chiami chissà cos'è il berberè, quindi diamo linea di precedenza a chi conosce il berberè anche sugli SMS, per cui cercheremo di scoprire assolutamente questo ingrediente che a quanto sembra sono una serie di spezie. Voglio tornare a Gianfranco Pola. Gianfranco, tu sei un grande promotore della Chartreuse. Ecco, d'estate come la vediamo la Chartreuse? Ma adesso da qualche anno abbiamo lanciato questo drink che si chiama 127, che è con ginger ale, quindi con zenzero, è sulla linea di, come diceva Guglielmo, del Moscow Mule, quindi è una parte di lime spremuto, 10 centilitri di ginger ale e 3 centilitri di chartreuse gialla. Abbiamo, come dicevo, seguito quella linea, abbiamo trovato un bicchiere un po' anni 70 e abbiamo lanciato questa moda e devo dire che funziona molto bene. Bene. Sia sulla parte adriatica che la parte tirrenica. Rimani con noi, passeremo ora la linea alla regia, ma abbiamo già risolto il mistero berberè. Fra poco vi leggerò cos'è. Linea alla regia. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta Il Gastronauta, l'Italia del cibo. Ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cruz. Coca-Cola e rum credo che sia uno dei più grandi classici. Bene, l'abbiamo ricordato. Allora, dalla regia Lorenzo già conosce cos'è il berberè. Berberè è una miscela di spezie in cui composizione tradizionalmente ci sono peperoncino, zenzero, chiodi di garofano, coriandolo, pimento, ruta comune, può comparirvi anche il pepe lungo, è un ingrediente chiave delle cucine eritree ed etiopiche. Grazie Lorenzo, beh, è abbastanza complesso, insomma, devo dire tutte queste cose dentro un bicchiere, sì. Insomma, sono abbastanza esplosive. Sì, beh, diciamo che molti cocktail, c'è anche un po' la tendenza, la mentalità, la creatività del barman si è molto aperta, no? Quindi berberè è una di quelle spezie, o meglio, di quella miscela di spezie che onestamente non conoscevo, però sicuramente molti barman utilizzano, contaminano il loro drink con spezie magari scoperte in giro attraverso i viaggi o anche attraverso magari una visita in cucina. Bene, è incredibile perché sono già arrivate 4 risposte. Da anni uso il berberè meno forte del solo peperoncino e molto profumato, quasi un curry da usare anche a crudo, non facile da trovare da noi. Anna, ciao Davide, si dice berberè, beh sì, è un mix di spezie, bene. Invece un altro mi scrive: il berberi è un peperone etiope soprattutto usato per fare lo zigohimi, che si mangia con pane etiope di Eritreo con 3 dita. Saluti. Beh, c'è un nome che non riesco a pronunciare, devo dire, sicuramente forse un etiope. Bene, abbiamo risolto questo grande problema che si era posto, ma ora torniamo a Gianfranco Pola che poi salutiamo. Voglio chiedere, Pola, una tendenza di un cocktail per l'estate quale sarà? Ma la tendenza, come diceva anche prima Guglielmo, sarà quella. Quest'anno va fortissimo il gin tonic e quindi tutti questi gin tonic aromatizzati sicuramente sarà la tendenza dell'estate. Credo che sul lungo e sul caldo non ci siano molte alternative. Poi certo, noi di Chartreuse proponiamo Chartreuse tonic con peperone o sedano o pinocchio e cercheremo anche noi di metterci in quella linea. Bene, grazie a Gianfranco Pola di Cremona, Pola Bar di Cremona. Sentiamo Bruno da Roma, radioascoltatore. Buongiorno Bruno. Sì, buongiorno Davide. Volevo dirti che io sono figlio di una donna nata ad Asmara, che è in Eritrea, e sì. Quindi da quando sono nato che mangio berberè. Ecco, benissimo. Lo mangi, ma tu sapevi che si può fare anche un cocktail? No, e questa cosa mi interessa molto, solo che non sono riuscito a memorizzare, a sentire bene il cocktail della signora che ricetta aveva. Era base vermentino, se non sbaglio. Sì, c'era, metteva vermentino, poi metteva anche spumante, quindi c'erano tante cose. Forse era un po' da correggere, vero Guglielmo? Era un po' complesso. Sì, era abbastanza articolato, perché includeva comunque diversi ingredienti che comunque credo che bisognerebbe provarlo. Bruno, tu hai detto che appunto mangi anche il berbere, come viene mangiato? Dove? Praticamente il piatto tipico eritreo si chiama zikini e viene fatto a base di berbere. Ah, ho capito. Quindi mi è una specie di cosa di spezzatino, di carne molto tagliata molto sottile, in umido, con pomodoro, cipolla e poi più o meno abbondanza di questo berbere perché è molto piccante. Bene. Se lo mangi direttamente sul luogo diventa quasi immangiabile. E loro addirittura usano lo yogurt per spegnere un po' l'eccessivo piccante. Ti ringrazio, grazie, grazie. Sentiamo anche Massimo D'Alecco. Buongiorno Massimo. Pronto Massimo? Pronto? Sì Massimo, prego. Sì, saluti Paolini. Dimmi. La mia domanda è questa, adesso va molto di moda il gin, è un po' dimenticato il whisky che ritengo super nobile alcolico che ci sia. Le mie domande sono due: se gli ospiti ritengono il whisky il super alcolico più nobile, e la seconda domanda, cosa pensano del Manhattan? A te Guglielmo. Ciao, allora penso che il Manhattan sia un grandissimo classico, poi può avere diverse variazioni sul tema scegliendo magari un rye whisky diverso rispetto a quelli convenzionali, o magari utilizzando un vermouth che ci piace. Io personalmente per il mio Manhattan, o comunque per i cocktail che prepariamo al dry, selezioniamo personalmente ogni singolo ingrediente che va a costruire il nostro drink, nel senso che segue molto il nostro gusto sostanzialmente. Quindi ritengo che comunque il whisky sia un distillato nobile ed è un distillato che comunque si presta molto bene alla miscelazione. Bene, 800 24 00 24, chi volesse intervenire, 349 238 6666. Continuiamo. Bene, abbiamo parlato di cocktail un po' particolari. Abbiamo con noi Antonella Nonino. Buongiorno Antonella. Buongiorno a tutti, interessantissimo questo discorso meraviglioso su cocktail e sul bere miscelato. Ecco, allora, sul bere miscelato, ma voi avete sostituito nel mojito, avete sostituito con un vostro amaro, ci vuoi raccontare qual è la ricetta del mojito Nonino? Ah, devo dire innanzitutto che noi siamo entusiasti dei cocktail che portiamo avanti da tantissimi anni, la prima Nonino Cocktail Competition ancora del 2008, e il mojito tutto friulano con l'amaro Nonino è veramente un cocktail strepitoso, proprio piace trasversalmente da New York fino a Shanghai. È a base di 5 centilitri di appunto amaro Nonino quintessenza, il nostro amaro. La base si prepara come nel classico mojito, con zucchero di canna, lime, qualche fogliolina di menta e poi ghiaccio tritato, e si mescola il tutto aggiungendo poi come decorazione, ma perché dà anche profumo, la fogliolina di menta, che per me deve essere sempre anche piuttosto esuberante, perché è anche bella da vedere, deve essere invitante, è come invitare durante un'estate calda fare una passeggiata in mezzo ad un giardino strepitoso. Ecco, il Nonino Frozen a base di amaro Nonino veramente è favoloso. Bene, rimani con noi, Guglielmo, tu l'hai mai assaggiato? Non ho mai avuto il piacere, però posso dire che gli amari sono divenuti uno di quegli ingredienti che oggi nei nostri drink non può mancare, soprattutto gli amari italiani, perché insomma sono eccellenza non solo in Italia ma soprattutto rappresentativi nel mondo. Io ho scoperto i primi drink a base di amaro a New York in America, ho iniziato a bere i primi drink con gli amari italiani. Beh, devo dire che può essere anche una via di rilancio dell'amaro, perché si beve sempre meno al ristorante l'amaro, non è come un tempo, oggi lo vedo molto meno. Assolutamente. L'amaro è sicuramente un ingrediente versatile. Molti produttori lungimiranti hanno chiaramente iniziato non solo a proporre l'amaro bevuto liscio, ghiacciato, con ghiaccio, on the rocks, ma anche riproposto in reinterpretazioni di grandi classici, come il Manhattan. Può essere una via anche per la grappa, perché il devo Negroni. Dire che ultimamente la grappa, diciamo, nei ristoranti, nelle case, insomma, non si beve più come prima, Antonella. Soprattutto perché se nel nostro caso, viaggiando molto nel mondo, dove i cocktail hanno sempre un posto particolare, ci si rende conto che l'amaro, soprattutto quando è di qualità, può essere la base per strepitosi cocktail, e noi sono tantissimi anni che lo proponiamo on the rocks, appunto nel Frozen, ma anche in altri cocktail che hanno come base il nostro amaro Nino Quintessenzia, e anzi abbiamo creato una moda, perché molti produttori poi sulla scia hanno cominciato a proporlo, scoprendo un mondo straordinario, veramente straordinario. Bene, bene, bene, tutto italiano è sempre, deve essere sempre, sempre di moda, deve essere sempre reinventato in questa maniera. Sentiamo, no, volevo leggere Guglielmo, uno mi dice: ma l'americano, che tra l'altro è una grande storia, non lo beve più nessuno. Ma certo, l'americano, noi al Dry posso dire che abbiamo, la proposta è molto ampia, l'americano è uno di quei drink richiesti, come lo è il Negroni, come il Manhattan, ma come al tempo stesso sono richieste preparazioni magari un po' più articolate, dai gusti un po' che rispecchiano e seguono un po' la stagionalità dei prodotti, ma l'americano è uno di quei drink ancora oggi richiesto. Poi chiaramente la differenza lo fa l'ingrediente che viene scelto dal barman, il vermouth piuttosto che il bitter, che diciamo resta l'amaro, no? Il bitter, il liquore aperitivo, che resta un ingrediente fondamentale per l'americano come il vermouth, resta sempre un po' discrezionale. Ho un SMS che mi dice: non sarei molto d'accordo nel catalogare lo spritz sotto la voce cocktail. Tu cosa dici? Beh, cosa dico? Se vediamo la definizione internazionale di cocktail, sicuramente non è un cocktail, nel senso che è stato comunque classificato tra i cocktail internazionali, però diciamo ha avuto un riconoscimento soprattutto in Italia, perché comunque fa parte di un'eredità. Lo spritz in realtà, come viene preparato in Veneto col bitter, è una variante addirittura sullo spritzer originale, no? Che era sostanzialmente del vino sprizzato con dell'acqua. Beh sì, sicuramente, però è talmente diffuso, devo dire, non solo in Italia ma nel mondo, che ha avuto un successo, cioè innegabile, un successo strepitoso un po' ovunque, e devo dire che questo radioascoltatore che scrive che probabilmente non si può mettere sotto la voce cocktail, tu dici dal punto di vista tecnico ragione, però diciamo che la realtà gli sta dando torto, cioè diventa un cocktail a tutti gli effetti. Linea alla regia, torneremo fra poco, grazie a Antonella Nonino. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Ricordo 800 24 00 24, per chi volesse intervenire su questo tema che sono i cocktail, un cocktail per l'estate. Comunque io ora faccio un annuncio importante. Sabato 27, domenica 28, nella sede del Sole 24 Ore, da sabato pomeriggio a domenica sera, ci sarà un grande evento che sarà panettone tutto l'anno. Ebbene, arriveranno da tutta Italia 45 produttori di panettone, i migliori, e faranno degustare, si potrà comprare, si potrà prenotare per il Natale. Ci saranno dei laboratori anche per bambini, ci saranno alcuni laboratori appunto per bambini, bisogna iscriversi, e ci saranno anche invece degli interventi molto professionali, tra cui un importante sulla pasta madre, verrà spiegato esattamente cos'è la pasta madre e anche se si può fare il panettone a casa. Non solo, ma ci sarà anche un altro intervento in particolare di un grande chef che è Massimiliano Alaimo, che farà un'esibizione su panettone naturalmente a colori, quindi ne vedremo insomma delle belle. Siete tutti invitati. Ma torniamo al cocktail e andiamo a parlare con un bar di Milano, anche questo molto noto ormai, il Barugo, e con Henry Leonard Bello. Buongiorno Bello. Buongiorno. Senta Bello, mi ha scritto un radioascoltatore che dice: Lugo spacca di brutto, prosecco, sciroppo di sambuco, ghiaccio e mentale. Questo è un cocktail che state facendo voi? Sì, nel senso è un cocktail che diciamo va anche molto di moda adesso, è molto fresco anche diciamo molto per la stagione estiva, è Ugo, in verità viene molto scambiato per un nostro cocktail di nostra appartenenza, quando in verità non è esattamente nostro, cioè nel senso è un cocktail che in verità viene scritto con l'H davanti, poi ovviamente ha preso, diciamo, abbiamo avuto anche da un lato la fortuna o sfortuna di avere un nome diciamo simile, no? Beh, sì, è vero. Comunque grazie per l'onestà, perché pochi sono così onesti da riconoscere ad altri poi diciamo l'origine. Ma volevo chiederle anche questo, siamo entrati appunto su questo argomento: quale sarà la tendenza dell'estate secondo lei diciamo dei cocktail? Saranno cocktail molto particolari, innovativi, oppure si torna alla tradizione? Per me nell'ultimo periodo si sono riscoperti determinati tipi di sapori che magari prima c'erano di meno, cioè io mi ricordo qualche anno fa quando lavoravo in altri locali si proponeva ad esempio il Moscow Mule come cocktail e non veniva tanto apprezzato come oggi, perché magari c'è anche una riscoperta dello zenzero, c'è una riscoperta magari del cetriolo, c'è una riscoperta comunque di questi prodotti che magari sono venuti anche fuori grazie al fatto che hanno anche magari delle proprietà benevole, diciamo. Ecco. Cioè, comunque... No, diceva. No, prego, continui lei. No, dico... Per me allora, i cocktail che vanno sicuramente per la maggiore in questo momento, lo vediamo soprattutto noi, sono Moscow Mule. C'è comunque una gran moda dettata dai gin in questo periodo, i vari gin tonic, l'abbinamento tra gin e tonica e magari degli aromi aggiunti. C'è comunque l'ugo. Cioè, noto con piacere che molta gente ci chiede anche il Pimm's Cup. Cos'è? Ce lo spiega? Il Pimm's sostanzialmente è un derivato del gin, è come se fosse un amaro, ovviamente non ha la stessa gradazione alcolica perché siamo intorno ai 25 gradi e viene adesso, cioè il cocktail Pimm's Cup è un cocktail che in Inghilterra si beve molto diciamo d'aperitivo, ma presto, tipo anche alle 5 del pomeriggio, e si beve con Pimm's e ginger ale normalmente, condito con frutta fresca di stagione, menta, cetriolo, ed è fantastico come cocktail. Mi fa un piacere che comunque la gente lo chieda. Bene, rimanga con noi che continueremo a parlarne. Per ora voglio andare a Riccione, al Biblos, da Marco De Bellis, perché chiedo anche a lui, che avrà ascoltato cosa diceva il collega di Milano, se anche in questa spiaggia importante, dove l'estate è già arrivata e credo siano già tanti turisti, di chiedergli se anche lui la pensa in questo modo o ci sono altri cocktail che vanno per il maggiore. Buongiorno De Bellis. Buongiorno. Allora, io indubbiamente ho ascoltato tutto quello che hanno detto i miei colleghi e a Riccione diciamo che sta prendendo piede molto il discorso del Moscow Mule, che in un contesto come la discoteca, come il Biblos, viene richiesto, anche se io devo dire che diciamo ci stiamo occupando molto di più dei pestati, del tipo io faccio delle varianti, propongo delle varianti a Biblos come un mojito al maracuja, che può essere banale diciamo come detto così, ma è molto molto apprezzato perché comunque la menta va a riscoprire diciamo quello che è il sapore dell'estate, e la maracuja, che è un frutto tropicale, va a rinforzare ancora di più il sapore di questo cocktail, e devo dire che sta avendo un grandissimo successo sia il mojito alla maracuja che la caipirosca alla maracuja. Bene, sentiamo Giuseppe dalla provincia di Monza Brianza. Buongiorno Giuseppe. Sì, buongiorno, eccomi. Prego. Volevo darvi un'informazione di un cocktail che mi faccio fare io, spero che sia bene. Una mia invenzione e di non scoprire che già esiste. Allora, io prendo un bicchiere a gambo alto a coppa, molto ampio, ci metto un'acqua tonica, aggiungo gin. Si può fare un po' più carico, un po' meno carico, metto ghiaccio, soprattutto quello fatto a coppette, perché poi vi spiegherò perché, e aggiungo uno spruzzo di scorza di limone per dare più sapore e più corpo alla composizione, e metto come ultimo tocco uno spruzzo e un goccio di Curaçao Bleu. E per finire metto una scorzetta di limone giallo annegata, senza agitare, e lascio depositare piano piano il Curaçao Bleu, e io chiamo questa cosa... Come la chiama? Chiamo questa cosa Laguna Blu, che è un cocktail freschissimo. Guardi, d'estate e profumatissimo. Il nome non è molto originale, ma magari può darsi che il cocktail... C'era un drink, scusami Davide, che si chiamava Blue Lagoon, appunto... Quindi tu dici che è stato preso da lì? Ma no, non dico che è stato preso da lì, però è un drink che è esistito negli anni 80, era molto richiesto, Blue Lagoon, soprattutto in discoteca. Bene, grazie Giuseppe. Allora, come ha sentito, esiste già ma non è il suo, quindi può continuare a farlo, chiamarlo magari con un altro nome. Bene, io ho ben quattro sms di radioascoltatori che tutti chiedono un cocktail analcolico. Allora, ora faccio un breve giro, a tutti e tre vi chiedo un cocktail analcolico. Cominciamo da te, Guglielmo. Ma per un cocktail analcolico si può davvero spaziare, nel senso che gli diamo veramente adito alla fantasia del barman, perché gli analcolici devono essere preparati sicuramente con ingredienti freschi, quindi succhi freschi spremuti e soprattutto oppure centrifugati. Quindi l'analcolico, sostanzialmente il long drink analcolico, è un drink che può essere preparato con verdure, spezie, può essere preparato con frutta fresca, può includere non solo zenzero, note citriche, limone, lime, quindi diciamo base un po' al gusto personale. Beh, noi in un alcolico che proponiamo anche al dry, chiaramente per calcare un po' la linea del drink a base zenzero, quindi il Moscow Mule, prepariamo un drink con zenzero fresco, lime, limone, poi viene sodato in maniera tale che si resti molto fresco e dissetante. Sentiamo Marco De Bellis. Io come analcolico, quando diciamo ho gli ingredienti per proporlo, faccio una base del pestato, quindi mezzo lime tagliato a spicchi e un cucchiaino di zucchero di canna grezzo scuro, poi mezza maracuja, ci metto non il concentrato, cioè il vero frutto, ci pesto anche delle fragole, dopo metto ghiaccio a cubi, succo d'arancia, una shakerata e ci faccio un topping di lemon soda, ci faccio appena una spruzzatina di lemon soda e di tonica. Facendo così c'è un mix di sapori che va dal dolce, delle fragole e del maracuja, allo stesso tempo all'aspro e al secco della tonica della lemon soda. Diciamo che è molto molto gradevole così. Grazie, sentiamo Leonard Bello. Analcolico. Noi ne facciamo un paio, ovviamente non li teniamo in lista unicamente perché vanno per la minore, però uno tra i nostri analcolici sicuramente è il molto semplice, succo di pompelmo fresco spremuto, siccome va anche succo lo sciroppo di pompelmo di sambuco che utilizziamo per l'ugo, lo utilizziamo anche in questo cocktail qua con un top di tonica. È un cocktail molto semplice, però è molto rinfrescante. La cosa comunque divertente è il contrasto che magari c'è tra il chinino della tonica con l'amarognolo del pompelmo e la dolcezza del sambuco, che è un bel connubio, diciamo. Bene, sentiamo Rudy da Milano, radioascoltatore. Buongiorno Rudy. Buongiorno Paolini, io la seguo spesso. Bene. Anzi, la seguivo meglio quando lo faceva di sabato mattina. Purtroppo, va bene. Niente, volevo dire, buongiorno ai suoi ospiti, che c'è competenza in quello che sta dicendo il signore di Milano. Tuttavia, tuttavia ci sono il 90% di barman improvvisati, non sanno le dosi, li fanno a caso, buttano per aria le bottiglie, cioè non è, cioè il barman proprio dovrebbero almeno avere un attimo di scuola, ma è gente che magari prima, che ne so, io facevo i muratori, poi sono messi a fare i baristi. Beh, insomma, ora, salto. Guardi, lei rimanga in linea, sentiamo i nostri ospiti che abbiamo. Leonard Bello, cosa ne pensi di questo? Ma io le devo dire la verità, io sono perfettamente d'accordo con quello che dice il signore, nel senso che io ho fatto ad esempio un corso quando avevo 17 anni, però dopo il corso ho dovuto fare tutta la gavetta, ovvero, cioè oggi molte volte quello che vengono saltati i passaggi, ovvero io quando ho incominciato a lavorare la prima cosa che mi mettevano a fare ovviamente è fare le birre, e mi hanno dovuto insegnare a spillare le birre, perché già quello è problematico all'inizio, e soprattutto a lavare bicchieri, guardare, imparare, poi oltretutto prendere libri, studiare dosi, mica dosi, non rimanere poi mai a quello che è l'origine del tuo studio iniziale, ovvero se uno fa un corso di 7 giorni, dove uno fa 9 ore al giorno di lezione, quando esce non sa niente, al 2% in mano del mestiere, 2%, il resto è tutta esperienza. E disgraziatamente non so se il 90% dei barman a Milano è improvvisata, cioè questo forse siamo, magari siamo esagerati, però effettivamente magari quello magari che ha riscontrato è che c'è una differenza tra un locale e l'altro, dipende anche dalla politica che si ha all'interno, certo. Cioè nel senso dipende anche uno come è stato imposto, cioè come è stato impostato dal proprio patrono. Sì, esatto, cioè come vuole servire una determinata cosa. Cioè. Grazie a Leonard Bello, grazie a Marco De Bellis, linea alla regia che ci dirà cosa succede nelle strade italiane a fra poco. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Eccoci di nuovo a parlare appunto di cocktail in questo mondo che abbiamo sentito da parte di un radioascoltatore, critiche molto dure, dice ci si improvvisa, e in realtà forse più che ci si improvvisa credo che in questo momento stiano crescendo i bar o i locali dove si servono cocktail a un ritmo veramente maggiore rispetto al passato, probabilmente ecco perché ci sono tanti barman che forse ho tanta gente che serve cocktail che è improvvisata proprio perché probabilmente non c'è una forza lavoro ancora pronta per questo mestiere. Ma continuiamo nel nostro giro. Ora andiamo a Roma, andiamo da Massimo D'Addezio, che è uno dei big romani appunto di questo mestiere. Anche lui, la prima domanda che gli faccio è questa: cosa prevede per l'estate? C'è qualche cocktail in particolare, qualche tendenza diciamo emergente, Massimo? Buongiorno carissimi a tutti quanti. Allora, assolutamente in linea con chi mi ha preceduto, quindi Moscow Mule, Hugo sono i must dell'estate che adesso stanno andando tantissimo. Poi sono su Moscow Mule, è possibile giocarci. Mi ricollego ad Antonella Nonino e con Moscow Mule ti dico che anche giocandoci con la grappa stessa e dello zenzero pestato si potrebbe ottenere un ottimo risultato, quindi non fermiamo la fantasia mai, ragazzi, giochiamo sempre con la fantasia e usiamo degli ingredienti anche inusuali. Io sono un po' quello che ha sempre giocato con le bottiglie impolverate. Ti dico una cosa, abbiamo parlato, avete detto insomma di quello che è lo spritz, se è o non è un cocktail. Vi faccio riflettere su una cosa: il gin tonic in fondo è gin e acqua tonica, se quello è un cocktail tanto è uno spritz, il povero spritz che ragazzi, il cocktail deve essere una cosa che fondamentalmente deve far divertire. Quando io dico sempre questa cosa qua, forse sto a noio, però lo dico, 20 anni fa, 23 anni fa, quando ho cominciato a fare la miscelazione a Roma, e quando venivano e mi chiedevano un americano, l'americano o il Negroni erano cocktail da gente che andava in discoteca, no? Diciamo, se beve il Negroni questo va in discoteca, si ubriaca. E poi nel 2000 Lotti, Mauro Lotti, Scott, il grande barman, si è inventato di shakerarlo l'americano, e adesso l'americano è il cocktail aperitivo perfetto, è stato riscoperto. Quindi tutto sta nell'aspettare un po' e vediamo che tra pochetto lo spritz sarà sdoganato. Lo spritz, se tu vai all'estero, certo, è iper apprezzato, ci sono i gusti italiani dentro, c'è il prosecco, c'è l'Aperol, più di così una fetta di arancia. Voglio aggiungere che in qualsiasi città d'Italia o d'Europa, se uno va in giro la sera verso l'ora dell'aperitivo, vede questo rosa di fondo in tutti i bicchieri, in quasi tutti i tavoli, quindi questo è veramente importante. Ma devo leggere un sms interessante che arriva proprio da Roma ed è un collega di D'Addezio di sicuro, Domenico Maura, manager di un hotel in via Veneto, che ci scrive che, ispirato alla vecchia tradizione romana delle fraschette, dove si mescolava il vino con la gazzosa, partendo da qui abbiamo elaborato uno spritz delle fraschette con vino di OCG Frascati, gazzosa di alta qualità arricchito con un ratafià di ciliegie fatto da noi, decorato con un rametto di menta del nostro orto bio, fresco, leggero e beverino, adatto per l'estate. Bene, voglio chiedere a Beppe Mancini, che è con noi, un altro barman importante, cosa ne pensa? Cosa ne pensi, Beppe, di questo cocktail? Ma buongiorno innanzitutto a tutti quanti. Sicuramente potrebbe essere una ottima variante, e quindi andiamo ancora a capire quanto importanti i prodotti locali della zona. Concordo pienamente con tutto quello che è stato detto prima, e mi sembra che è emerso che uno dei cocktail dell'estate di tendenza sarà proprio il Moscow Mule, che è tornato in auge grazie alla riscoperta di questo fantastico tubero che è lo zenzero, dalle proprietà benefiche già risapute. Io volevo invece suggerirvi e proporvi una combinazione tra i due distillati, quindi quello della vodka abbinato allo zenzero e al succo di lime per quanto riguarda il Moscow Mule, a il gin, visto che è di grande tendenza in questi ultimi anni, e sostituire il succo di lime con due fette di zenzero pestate con un cucchiaino di zucchero bianco e finire con della tonica. Avremo quindi questo retrogusto speziato dato dallo zenzero e molto fresco allungato da parte della tonica. Come guarnizione suggerirei di avere solo degli oli essenziali ottenuti da una scorza di limone. Questo è... Volevo chiederti, io so che tu stai sperimentando con prodotti selvatici, può essere una nuova strada questa? Sì, allora sto tenendo un po' sottovoce questa nostra sperimentazione, perché è veramente, la definirei hardcore, nel senso che potrebbe essere una cosa molto forte. Mi sono trovato a preparare dei drink con degli insetti, quindi stiamo cercando di anticipare forse quali saranno le tendenze del futuro della miscelazione, o addirittura con delle erbe spontanee e selvatiche che possiamo trovare tranquillamente sotto i nostri occhi, ma forse non abbiamo mai pensato di utilizzare come ingredienti, e quindi riesco con degli estratti di tarassaco o magari utilizzare del polline abbinati a dei buoni distillati, perché credo che la selezione delle materie prime faccia la differenza, a ottenere dei risultati, diciamo, simpatici. Anticipo solamente che siamo riusciti a realizzare un drink con l'acqua del governo della mozzarella, che di solito viene buttato. Bene, è un recupero. La prossima settimana, probabilmente fra due settimane, parleremo anche di recupero su questa trasmissione, quindi ben venga anche questo, ne terremo conto. Voglio tornare a Massimo D'Addezio su questo, che un radioascoltatore ha lanciato prima una provocazione, dicendo: beh, c'è troppa impreparazione in giro. Lei cosa ne pensa? Sì, è verissimo, è verissimo. Allora, concludo, ti dicevo prima, ci sarà, vedrai, una sorpresa nei cocktail dell'estate. È uscito un nuovo prodotto, un nuovo vermouth, si chiama Rubino, è della Martini, vermouth e acqua tonica. Sarà un'altra cosa che quest'estate andrà tantissimo, perché è veramente, l'ho provato l'altro giorno, è veramente buono. Chiuso questo delle tendenze, ti dico che abbiamo una deriva pericolosa, perché abbiamo molte persone, miei colleghi purtroppo, che nella loro impreparazione toccano una sostanza che è l'alcol, che sì, che è un alimento, ma va gestito, perché è una sostanza che poi ti inebria. A che cosa succede? Io dico sempre che serve un patentino per chi va dietro ad un bancone. Dovrebbe essere regolamentato il nostro mestiere da un ente superiore, vuoi che sia il Ministero della Sanità o vuoi che sia un ASL, ma va dato un patentino, ovvero deve essere obbligatorio conoscere, quindi quindi studiare quello che è l'alcol e i suoi effetti, perché ragazzi un conto è gestire un bar da dietro al bancone e con maestria dire al cliente che è un po' esagerato, va bene grazie, questa sera la serata è finita, ma serve della maestria per fare questo, per non andare a finire male. Però prima di arrivare a questo bisogna dire all'operatore: guarda che tu stai toccando una bottiglia che se mal gestita fai male a qualcuno, perché puoi creare un danno. Certo, grazie, ecco. grazie Massimo. Grazie a voi, grazie Davide, grazie a voi. Volevo leggere una cosa velocissima, 30 secondi Guglielmo. Mi dicono che il mezcal sarà la prossima moda dopo il gin. Beh, mezcal si sta diffondendo, è divenuto è oggi un distillato richiesto. Mezcal appartiene, diciamo, alle famiglie dei distillati di agave. A differenza, diciamo, del tequila, ha un carattere decisamente a carattere, è marcato e deciso come il tequila, con queste note anche affumicate. Sì, il mezcal potrebbe divenire uno di quei distillati. Ecco, io voglio tornare un po' a quello che ha detto prima D'Addezio sul vermouth. Si sente che anche il vermouth, il rumore del vermouth che sta tornando. Sì, anche fin troppo. Bene. Dopo questa parentesi del gin. Io sono un grande estimatore di vermouth, però come ogni cosa si sta cavalcando l'onda del vermouth e quindi adesso tutti producono vermouth. Bene, ringrazio Lorenzo e Andrea, uno in regia e uno in redazione. Ringrazio Guglielmo Miriello del Dry di Milano che è stato qui con noi e io vi do appuntamento, cari radioascoltatori, domenica in diretta, quindi una trasmissione aperta al pubblico che si terrà appunto nella sede del Sole 24 Ore, quindi potrete partecipare e potrete anche intervenire durante la trasmissione. Si parlerà ovviamente di panettone, si parlerà di panettone, si parlerà di tradizione, si parlerà di tanti argomenti attorno al panettone, si parlerà anche di lievito madre e magari si parlerà anche di lievito madre senza glutine, una cosa che interessa credo molti, ma anzi moltissimi ad oggi. Quindi interveniti, potrete intervenire previa iscrizione, ma diciamo che l'ingresso è libero sia alla manifestazione sul panettone che alla trasmissione. Quindi vi auguro buon pranzo, vi auguro stasera di bere un ottimo cocktail, dopo tutte le informazioni che avete avuto, e un caro saluto da Davide Paolini.